Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia bene, ormai, che mostrava tutte quante le sue fine, sfida il tempo e si vento, e tu lo sai, sì, tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita. Nuove notti e nuovi giorni, cara, vai o torni con me. Davanti a te ci sono io, dammi forza mio Dio, un altro uomo, chiedo adesso perdono. E nuove notti e nuovi giorni, cara, non odiarmi se puoi. Conosci me, che ne sai di un viaggio in quel terra, che darei, che ne sai di un amore sbagliato, perché negli altri ritrovassi che mi hanno detto bugiarda finita. Somebody's a man.